fare, ma con gli anni, il vino e la miopia, io poi non è che beva molto, magari a volte non ricordo se il conto fu salato e lo pagai, se fosti tu che mi mandasti via, se spensi presto la mia fantasia, senza limiti lacrime versai. Il tempo per parlarti corse via, sul marciapiede che quel giorno camminai, la casa che prendemmo era là e firmai, e fu la vita mia, ed ogni volta va così. Negli anni il vino e la miopia, l'amore adesso è più profondo, disegna bello il suo contorno, ma se ogni volta te ne vai, i cerchi non si chiuderanno, dal centro ne veniamo fuori noi, per scegliere parole di un addio. Il tempo per parlarsi corre via, sui marciapiedi che ogni volta è un via vai, la casa che ho vissuto è ancora là, e oggi ho questa vita mia. Non posso rinnegare dove andai, che io fossi l'universo da esplorare, lo viaggiai, e voglio ricordare che sperai, che fossi l'uomo giusto per sorprendere, pensai, ma spesso io non chiesi come stai, i battiti da spendere per me li consumai. Sarà il mio disincanto, ma anni il vino e la miopia, non è che ormai ci creda molto, con me su questo non c'è accordo, e se stavolta resterò, se riuscirò a non mandarmi via, di giorno un giorno porterò oltre i limiti la mia fantasia. Tempo per parlare ci sarà, sul marciapiede che stavolta passerò, la casa che vivremo è questa qua, firmerò, sarà la vita mia. Non devi rinnegare dove andrai, saremo l'universo da esplorare, viaggerai, le tue speranze condividerai, per essere nel giusto e sorprenderti saprai, non smettere di dire come stai, i battiti da spendere per noi consumerai. Non posso rinnegare dove andai, che io fossi l'universo da esplorare, lo viaggiai, e voglio ricordare che sperai, che fossi l'uomo giusto da sorprendere, pensai, ma spesso io non chiesi come stai, i battiti da spendere per me li consumai. Non devi rinnegare dove andrai, saremo l'universo da esplorare, viaggerai, le tue speranze condividerai, per essere nel giusto e sorprenderti saprai, non smettere di dire come stai, i battiti da spendere.